quando facciamo l'orazione, nostra quotidiana, e spesso prendiamo spunto dalla liturgia del giorno, e io ho pensato oggi così di guardare il Vangelo che ci aspetta nella messa, il Vangelo con il quale il Signore in qualche modo ci dà il benvenuto, e penso che sia una bella provvidenza ordinaria del Signore Gesù il fatto di salutarci oggi con queste parole del Vangelo di San Giovanni. Sapete che nella messa della liturgia del rito romano in questo tempo pasquale si legge si leggono le parole del Vangelo di San Giovanni, soprattutto in questo periodo, quelle dei capitoli che riguardano l'ultima cena, e proprio oggi noi leggeremo queste parole. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Io penso che all'inizio di un corso di ritiro queste parole di Gesù siano molto illuminanti, lo sono sempre, tutte le volte che le leggiamo, ma all'inizio di un corso di ritiro per me risultano molto illuminanti, perché è come se Gesù ci dicesse: in questi giorni tu puoi meditare a lungo su come io ho amato voi, e anche non solo al passato, no? Come io amo ciascuno di voi. In quel discorso che San Giovanni riporta dell'ultima cena c'è anche quella famosa parola che Gesù dice del Padre, no? Dice: il Padre stesso vi ama. È molto bello cominciare a meditare sull'amore di Dio sapendo già che questa meditazione porterà nel desiderio di Gesù ad un riempirci del suo amore per poi riversarlo sugli altri, no? Attorno a noi. Però abbiamo bisogno di fare questo, e forse questi giorni di calma e di raccoglimento possono favorire questa nostra meditazione. Lo diciamo al Signore, desideriamo meditare, insomma, metterci, come dire, alla luce di questa verità che in un certo senso non è nuova per noi, no? O è molto antica, però non ci basta mai meditarla. Abbiamo sempre bisogno di sentircelo dire di nuovo dal Signore. Abbiamo bisogno di curare dentro la nostra anima una profonda ferita che sempre, in un modo o in un altro, si riaffaccia, no? La profonda ferita che in fondo è come una conseguenza a lungo termine, no? del peccato d'origine, no? che è la conseguenza dell'avere la tentazione di pensare che non sia così, no? Che il Signore non si è dimenticato di noi oppure ci guarda male per quello che facciamo. E invece questa è appunto la conseguenza del peccato, no? Che portò Adamo ed Eva a nascondersi dallo sguardo di Dio e ecco e a temerlo in senso negativo, no? In senso biblico, ad avere paura. Ciò che guarisce la paura è l'amore. E le parole che Gesù ci dice attraverso il Vangelo e soprattutto nella Messa sono parole di rassicurazione in questo senso. Ci rassicura del suo amore perenne, del suo amore infinito. E tu Gesù in quest'ultima cena insieme, cioè quando stai con i tuoi, che poi siamo noi, perché i tuoi discepoli siamo noi, tu queste parole le dici oggi a noi e dici a loro: vi ho chiamato amici perché, e non vi chiamo servi, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non che in queste parole Gesù voglia togliere importanza alla dimensione del servizio anche che c'è nella nostra vita nei suoi confronti, e non solo, nei confronti di coloro che noi amiamo e nei confronti di tutta la società e di tutto il mondo, nei confronti della Chiesa. C'è la dimensione del servizio che però nasce dall'amore. Gesù usa in questo caso la parola servo in un'accezione un po' negativa, come la distanza di una persona che è distante dal padrone o dalla sua intimità, dalla sua confidenza. E lui stesso è il servo di Yahweh e poi dice che non è venuto per essere servito, ma per servire. Però con queste parole, nel Vangelo di Giovanni, ci dà una dimensione nuova del nostro rapporto con lui, che è la dimensione dell'amore d'amicizia. E l'amore d'amicizia comincia da te, Gesù, nei nostri confronti. È sempre cominciato da te, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. È sempre cominciato da te in tutta la nostra vita. Sei sempre stato tu ad avere l'iniziativa. Al Papa Francesco piace parlare di tanti aspetti di Dio e di Gesù e della vita cristiana che su cui torna, e uno è questo, che Dio ci precede sempre. È sempre il primo e prende sempre lui l'iniziativa. Anche in questo nostro essere qui, e ciascuna di voi avrà la sua storia, quindi è una storia che il Signore conosce perfettamente. Però anche nel nostro essere qui dobbiamo pensare che c'è l'iniziativa del Signore, c'è il suo invito. Vieni a stare con me un po', che ho bisogno di parlarti. Ho bisogno di dirti cose antiche e cose nuove. Il Signore in genere quando cioè, fa quello che vuole con noi nella sua comunicazione d'amore è sempre fantasioso e nuovo, però a volte usa le parole antiche, cioè le parole della scrittura per dirci cose nuove, perché ce le fa comprendere in un modo nuovo, in un modo nuovo. Per esempio, così faceva con molta frequenza con San José Maria, la cui vita, il cui spirito conosciamo bene, i cui scritti anche quando lui aveva qualche visita del Signore un po' speciale, un po' soprannaturale, spesso era attraverso parole della Sacra Scrittura che ascoltava in un modo nuovo, in un modo nuovo, che sentiva in un modo nuovo, le sentiva nella sua mente, le sentiva per esempio durante la messa. Se volete, nella messa che noi fra poco celebreremo, possiamo ricordare quella locuzione divina che San José Maria ha avuto il 7 agosto del 31, mentre celebrava a Madrid la festa della trasfigurazione del Signore, nella elevazione dopo la consacrazione, ecco, del pane consacrato, e ha sentito dentro di sé, comprendendolo in un modo nuovo, quelle parole di Gesù che diceva: quando io sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me, e comprese che il Signore gli voleva dire che i suoi figli e le sue figlie spirituali, cioè quindi possiamo dire tu e io e tutte le persone e tutti i cristiani, sono Gesù che passa in mezzo al mondo, Gesù che attrae a sé tutte le cose e tutti gli ambienti e tutte le persone. Sono Cristo crocifisso e risorto. Ecco, allora noi possiamo chiedere al Signore: Signore, che cosa mi vorrai dire in questi giorni? E sono molto desideroso di sentire la tua parola, di sentire tante tue parole o poche, ma comunque sempre, sempre importanti per me, sempre pensando alla vita di San José Maria, quando dopo il faticoso, faticosissimo passaggio dei Pirenei, in quell'epoca di guerra, di stenti, di paure e anche di fatiche fisiche e anche spirituali, e decise di fare appunto un tempo di ritiro spirituale, qualche giorno di ritiro. Allora, la sua orazione era molto semplice: era Gesù, dimmi qualcosa. Gesù, dimmi qualcosa. Non voi avete scelto me, leggiamo ancora nel Vangelo di oggi, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Allora noi ringraziamo il Signore di queste parole con cui ci dà il benvenuto. Possiamo immaginarci nello scorrere del Vangelo di San Giovanni che queste siano parole che rispondono alla, a quell'iniziale desiderio dei primi due discepoli che sono andati da lui, con cui comincia il Vangelo, dopo il prologo, dopo la testimonianza di Giovanni Battista, il primo, il primo episodio di incontro di Gesù con i suoi discepoli è quello di Andrea e l'altro discepolo che con ogni probabilità è Giovanni, l'Evangelista. Il giorno dopo Giovanni, il Battista, stava ancora là con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: ecco l'agnello di Dio. E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: che cosa cercate? Gli risposero: Rabbì, che tradotto significa maestro, dove dimori? E disse loro: venite e vedrete. Andarono dunque e videro dove egli dimorava, e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. L'Evangelista non racconta quello che si sono detti quel giorno. Era il primo incontro, ma senz'altro si sono detti delle parole che, o Gesù ha detto loro delle parole che permettono a loro di dire agli amici che incontrano, ai fratelli: abbiamo trovato il Messia, e di portarli da lui. Quindi non sono state parole banali o parole di circostanza, sono state parole di rivelazione che Gesù ha detto loro quel giorno. E io penso che alcune di quelle parole noi le ritroviamo sparse lungo il Vangelo. E è una bella immagine vera della loro storia, che si può applicare perfettamente a questo momento. Voi, ciascuno di voi, può vivere questi giorni come i discepoli che seguono Gesù e che entrano nella sua casa, che stanno con lui tutto il giorno, che quindi parlano, svelano un po' se stessi, anche se scoprono poi lungo il dialogo che Gesù li capisce perfettamente, sa già tutto. Poche parole più avanti, nel Vangelo di Giovanni, si dice che egli sapeva quello che c'è in ogni uomo. Era un'esperienza fortissima la loro, di scoprire che Gesù li capiva come nessun altro mai aveva fatto, che andava al di là delle loro stesse parole. Noi nella nostra orazione dobbiamo sentirci così, sentirci profondamente compresi. Tu, Gesù, sai già tutto della nostra vita, sai tutto ciò che accade nella nostra esistenza, e la benedici, e però desideri che noi la possiamo riversare nel tuo cuore in modo esplicito, e come forse è accaduto quel giorno. Hanno parlato di sé e hanno ascoltato lui. Che cosa cercate? Gli risposero. Rabbì, che tradotto significa maestro, dove dimori? Disse loro, venite e vedrete. Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui, erano circa le 4 del pomeriggio. E nell'incontro con Gesù, nell'incontro con nostro Padre Dio, nell'intimità con lo Spirito Santo che abita i nostri cuori, noi riscopriamo noi stessi, noi comprendiamo noi stessi in un modo molto più profondo, comprendiamo il senso della nostra vita, veniamo chiamati per nome e il nostro nome risuona sulle labbra di Gesù, come quando nel Vangelo vediamo che chiama Pietro e a Pietro gli cambia il nome, no? Ti chiamerai Cefa e chiama anche, dà un soprannome a Giovanni e a Giacomo, i figli del tuono, chiama Marta, Marta. Simone, Simone. Ecco, e sappiamo anche che da quello che ci svela il Signore nell'Apocalisse, che Lui, quando ci sarà il nostro incontro definitivo con Lui, ci svelerà il nostro vero nome, cioè quello che, nel quale comprenderemo meglio tutto il significato della nostra vita. Noi, nel cominciare questo tempo, questo tempo di grazia, no? Questo tempo, questi giorni di silenzio, di intimità con Lui, di preghiera, di meditazione, di ascolto, noi possiamo davanti a te, Gesù, riscoprire noi stessi il valore della nostra vita a partire proprio dal suo inizio, cioè se noi vogliamo indagare come tu ci hai amato, Gesù, come affinché possiamo amare gli altri come tu ci hai amato, possiamo pensare che l'inizio del tuo amore nasce con il nostro concepimento. Hai pensato a noi da tutta l'eternità, si suol dire. E possiamo rivolgerci al Signore con le parole del Salmo 139, no? che dice questo. E sei tu che hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Meravigliose sono le tue opere, le riconosce pienamente l'anima mia. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, ricamato nelle profondità della terra. Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi. Erano tutti scritti nel tuo libro i giorni che furono fissati, quando ancora non ne esisteva uno. Quanto profondi per me i tuoi pensieri, quanto grande il loro numero, Dio. Se volessi contarli, sono più della sabbia, mi risveglio e sono ancora con te. Queste parole magari non le riconosciamo tanto perché nell'antica traduzione, nella precedente traduzione, suonavano così, quando il salmista dice hai fatto di me una meraviglia stupenda, meravigliose sono le tue opere, suonavano così. E mi hai fatto come un prodigio, sono stupende tutte le tue opere. Sapete che i salmi sono la preghiera con cui sono la preghiera ispirata da Dio. Dio ci dice: se volete pregare, pregate così. Poi dopo viene arricchita, evidentemente, lungo tutta la Sacra Scrittura. E quando è col Padre nostro e con le preghiere che Gesù fa con i suoi discepoli e anche per conto suo, e, insomma, la rivelazione della preghiera si completa come ogni rivelazione in Gesù. Però i salmi sono sempre vivi, sempre attuali, e sono stati anche la sua preghiera e anche la preghiera di Maria. Per cui sono, come dire, normativi della nostra preghiera. Non dobbiamo avere paura di dire anche noi così: ti lodo, Signore, perché mi hai fatto come un prodigio. Non è un atto di vanità, è un atto di umiltà. È un riconoscere che noi siamo come tu ci hai creati e che noi siamo così perché tu ci hai pensati così. San Giovanni Paolo II, nell'Evangelium Vitae, a un certo punto del discorso, del documento, ha come uno squarcio, una parentesi, una lode, no? In cui dice: anche noi tutti i giorni preghiamo così. Ti lodo perché mi hai fatto come un prodigio. Sono stupende tutte le tue opere. E io penso che in questo modo lui svelava la sua preghiera tutti i giorni. Lodava Dio per il dono della vita e per la meraviglia che è la creatura umana, l'essere umano, ciascuno di noi. Noi così, nell'incrociare il nostro sguardo con lo sguardo di Gesù nella sua casa, no? Nel nostro incontro con Lui, possiamo leggere nel suo sguardo possiamo specchiarci, possiamo ritrovarci, possiamo scoprire la nostra origine e quindi reagire così, con questo ringraziamento grande, con questa lode. Ti lodo perché mi hai fatto come un prodigio, come una meraviglia stupenda. Sono stupende tutte le tue opere, sono meravigliose tutte le tue opere. E Maria Santissima, Madre di Gesù, Madre di Dio e Madre nostra, che ha pregato tutta la vita in questo modo, ed è una maestra per noi della preghiera di lode, può aiutarci a vivere questi giorni anche con questa dimensione della preghiera di lode, di ringraziamento. In fondo, se noi scopriamo di più e meglio quanto il Signore ci ama, è ovvio e logico che scaturisca dal nostro cuore come risposta una preghiera di ringraziamento, un grazie molto profondo, molto sentito e anche possiamo dire continuo, come il battito del cuore.